mattina, il pomeriggio e poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Mannaggia, San Cresco, San Dandoni, gli se chi ce l'ha messo sopra l'andata. Solenne giornata! Eccoli! È questa la verità, in punta di pedali, non è in punta di pedali quest'oggi, perché lo sentite dal sottofondo e anche dalla voce che è qui accanto a me, Tuco! Wow. Attenzione! Eccoci qua, in una nuova puntata, veramente noi siamo incredibili, l'urlo dei pedali! L'urlo dei pedali, quest'oggi per voi tutti e tutte è solo, è una cosa esclusiva, è una cosa nuova e chissà se mai si ripeterà. Sicuramente congiunzione strana ci ha portato. Sì, è vero, perché noi andiamo ci alterniamo di solito, un giovedì io e con Denver, un giovedì te, però vabbè, scorsa settimana te hai avuto inconvenienti, ho detto ahimè, Denver è andato a Londra, è sparito, è scappato. Ah, è andato a Londra? È andato a Londra, furbetto. Sì. Furbetto a Londra, sì. E allora noi facciamo, uniamo le forze e viene fuori un mix esplosivo, stravagante. Assolutamente. Si chiama In Punta. No, non è in punta di Balcani, bensì l'urlo dei pedali. Grande discussione per decidere questo titolo alternativo. E siamo tra l'altro coloro che fanno sti mashup incredibili, un po' al contado. sì, è un di po', tutto un po'. Vabbè, è un laboratorio, allora, si sperimenta. Ah certo, no, è il fondamentale, anche l'attitudine hacker, in questo anche lo sperimentare. Beh, senti, di cosa parliamo oggi? Allora, oggi abbiamo come argomento principale è la Critical Mass, perché qualche giorno fa, era il 21, quando a Torino è stata caricata dalla polizia, una Critical Mass, sì, avete capito bene, una Critical Mass è stata caricata dalla polizia, quindi avremo un collegamento, un compagno torinese che era presente quella sera e quindi ci racconterà un po' la cronaca di quello che è successo e anche un po' il clima che si sta respirando a Torino, visto che... Visto che sì, ne stanno succedendo di queste cose, certo. Abbiamo visto gli sbirri in tram, abbiamo visto l'asilo, abbiamo visto gli sbirri rincorrere di qua, rincorrere di là. Ecco, una critical mass non era, almeno quantomeno in Italia, non era mai stata caricata dalla polizia. E avremo pazzesco. Poi anche il critical mass internazionale, naturalmente, con delle notizie che arrivano niente proprio di meno che dai Balcani. Da Tirana, per la precisione, Albania. Evviva! E infine anche la Critical Mass fiorentina, ci collegheremo perché è proprio stasera, alle 6:30 ci ritroviamo in Santissima Annunziata, cioè ora, va bene, quindi partirà verso le 7:30 e prima c'è anche un evento insomma particolare legato alla questione torinese. E poi abbiamo notizie, la CIE Mona che si avvicina fra pochissimo a Roma a fine maggio e quindi tante notizie. In assenza di Denver, noi siamo pronti a chiamarlo il compagno torinese. Mandiamo un pezzaccio? Però mandiamo un pezzaccio prima, dai. Dai, I Like Bird Hills. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and okay. I won't listen to their words, cause I like... Yay, c'è scritto? Sì. Birds. If you're small and unassertive, stiamo provando a chiamare il compagno torinese. È questo, sì. Che abbiamo già sentito la voce di Radio Wombat. All'epoca. Perché è un rider. Uno dei rider torinesi. Chissà, risponderà? Chissà, chissà. Pronto? Pronto, Marcolino? Eccomi, ciao. Buonasera, ecco, buonasera. Bentornato a Radio Wombat. Grazie. Stavamo ricordando la puntata in cui ci hai parlato della questione dei rider torinesi. Eri uno dei, insomma, riguardo al processo, all'udienza, un paio di mesi fa. Quest'oggi però parliamo di una cosa diversa, parliamo della Critical Mass del 21, di settimana scorsa, alla quale tu hai partecipato. Puoi raccontarci che cosa è successo? Allora, era la prima Critical Mass di quest'anno ed era stata lanciata un po' in grande stile rispetto al solito. Insomma, la Critical Mass è un appuntamento che c'è in tante città, immagino ci sia anche a Firenze. Stasera, però, fra l'altro. Per questa volta c'era... Bene. Infatti anche io adesso sto andando al presidio che c'è davanti al comune in risposta, esatto, a quello che era accaduto l'ultima volta. Ah, veramente una Critical Mass un po' più in grande stile, quindi c'è una chiamata un po' allargata, rivolta anche ai collettivi universitari, alla realtà che a Torino si stanno muovendo, insomma, niente che politicizzi troppo quello che è un appuntamento appunto dei ciclisti per la mobilità sostenibile, però insomma una chiamata che sicuramente voleva essere più grande del solito, un po' più così allargare il proprio bacino a tutti quelli che appunto fanno anche dell'attivismo a Torino, diciamo, di varia natura. Certo. Quindi ci troviamo in un'ottantina, centinaio di persone con le biciclette in Piazza Castello e niente, iniziamo a muoverci, insomma, la Critical Mass ha questa forma anche disordinata, un po' ha delle accelerazioni, delle frenate, insomma si inizia a fare questi caroselli negli incroci per ricompattare il gruppo, un po' appunto, sì, per farsi vedere, per fare in maniera per diventare il flusso, no, del traffico. Questo è un po' lo slogan della Critical Mass, no? di diventare il traffico, no? Di certo, prendersi le strade con il proprio numero. Invertire la tendenza. Esatto, ribaltare le gerarchie della strada, rispetto alle macchine. Ecco, uno di questi caroselli, la polizia in borghese si avvicina con le macchine agli ultimi che stavano in quel momento stazionando, ma nel senso che si erano un attimo fermati prima di entrare nel carosello, perché il carosello stava occupando ormai tutto l'incrocio, quindi si avvicina agli ultimi, ragazzi in bici della Critical Mass, esce un poliziotto, insomma, graduato, presumo, un capetto della situazione, fa prendiamo questi a caso, completamente a caso tutto, cioè, questo, e afferrano dei ciclisti, insomma, ne segue un parapiglia e dietro il poliziotto in borghese compare il reparto mobile, la Celere, che ovviamente non ci va giù leggera come al solito, e partono delle piccole cariche, insomma, ci sono state brutte scene di disazionamenti dalle bici. Ecco, ma cioè, tutto questo vuol dire era una cosa premeditata, erano pronti? Perché c'era la Celere dietro a una scemmona? A la Firenze Celere... non si è mai visto niente del genere. No, ovviamente, no. Io sono andato a guardare per curiosità dei video delle Critical Mass vecchie, no? Torino 2008-2009, così non ci sono neanche i vigili. Ultimamente il passo a Torino è questo, no? Qualsiasi mobilitazione in strada, un po' così, che magari non è istituzionale, non è magari, appunto, la Critical Mass è un'altra roba che rivendica di non avere un percorso prefissato, no? Assolutamente. Non può avere neanche una... Né degli organizzatori, è una coincidenza, viene detto. Esatto. E quindi niente, la polizia ormai usa a Torino usa questo genere di precauzioni per ognuna di queste iniziative, per dare l'idea, tra l'altro non capiscono bene la differenza tra Critical Mass, Rider, quando siamo partiti in bicicletta c'era un cordone di celerini davanti al McDonald's di Piazza Castello, che è l'obiettivo in genere sotto cui vanno i rider a protestare quando se la prendono con un globo, quindi insomma, cioè, attuano tutta una serie di misure preventive esagerate e anche odiose e anche pericolose, perché poi appunto, cioè, quando arriva la Celere, Celere picchia, quello sa fare, per quello li arruolano, sì, non è poi che sanno fare altro. Mass è una cosa frequentata anche dalle famiglie, dai bambini, cioè, veramente è un spettro molto ampio, esatto, di partecipanti. Ma e alla fine, esatto, ci sono stati dei fermi? C'è stato un fermato portato in questura, fotosegnalato rilasciato poi in tarda serata, diciamo verso mezzanotte, con un'accusa di resistenza per non aver voluto dare le proprie generalità. Ah, ecco. Ma in realtà, cioè, più che non volerle dare, continuava a dire: ma perché devo darvele? Alla terza richiesta di spiegazione è stato poi portato via in malo modo, strattonato, insomma, minacciato, tutto il corollario di queste... No, le altre persone... Ah, forse sì, però le altre persone erano state poi rilasciate al momento, dopo una ventina di minuti. Insomma, la situazione che si è venuta a creare poi dopo le cariche era appunto che molta gente andava per discutere con i poliziotti. Non si è creato un vero fronteggiamento, perché da parte nostra non c'era nessuna... non era un corteo, certo. Appunto. Cioè, si tratta anche di persone per la maggior parte non politicizzate, che non... Cioè, che andavano a discutere con la polizia perché erano testimoni di una violenza, di un'ingiustizia, di quello che veniva percepito giustamente come un abuso. Certo, si è trattato secondo te di un atto intimidatorio? Come? Si è trattato secondo te di un atto intimidatorio nei confronti di un qualcosa, di chi anche, sì, fra l'altro? Perché... Sì, ma se, cioè, poi non ne ho parlato, anche perché non, insomma, ero abbastanza... All'inizio avevo l'idea abbastanza... confuso sul fatto, diciamo, mi chiedevo ma perché hanno fatto una roba del genere. In realtà ora sinceramente non credo fosse un atto premeditato, credo che fosse un atto, una piccola soperchieria dei poliziotti in borghese, che è diventata in breve una carica per incapacità della polizia di gestire queste situazioni. Quello che è il dato politico, diciamo, che appunto poi si è rimarcato da parte di alcuni compagni che hanno scritto dopo, cioè, nel senso che a Torino il governo del territorio, il governo dei problemi politici, la gestione dei problemi politici è un fatto di polizia. Avete cambiato il questore di fresco, fra l'altro. Sì, il questore dagli ultimi colpi, poi cambierà dopo la manifestazione grossa degli anarchici dopodomani. Appunto abbiamo una giunta che non fa molto, cioè, più che fare quello che è costretta a fare per la fase storica, quindi alzare le tasse, tutte queste robe qui che in questi giorni stanno facendo anche discutere, e che però in assenza di grossi risultati politici, quello di cui si può vantare sono gli sgomberi dei campi rom, lo sgombero del MOI, questa casa dei rifugiati, lo sgombero dell'asilo, insomma, cioè, da una giunta che si vanta della polizia, di quello che fa la polizia. Poi a sto giro ovviamente anche noi, fra l'altro, grossa, se quindi... possiamo dire, guarda, quindi... ma forse mi sa che è un po' il segno dei tempi. Appunto, per incapacità politica uno si rivendica quello che fa la polizia, poi quando la polizia piscia fuori, che in questo caso ha visibilmente pisciato fuori, anche le giustificazioni del questore in questo senso sono incredibili, perché poi ha detto che hanno caricato perché c'erano gli anarchici, poi non è che facessero chissà che, non era neanche una percentuale, ma non c'è neanche da indagare, so che è un discorso che non sta in piedi, no? Che caricare una manifestazione perché ci sono gli anarchici dentro, come se di per sé fossero assurdo. Questo la violenza, la caccia all'uomo che sta avvenendo a Torino, però di fatto questa è il clima di caccia alle streghe. In questo caso appunto la politica, diciamo, di palazzo si è discostata dicendo no, faremo luce sull'accaduto, ma in realtà appunto si tratta di vuote parole. Ormai a Torino spadroneggia la polizia, non bisogna avere paura di dirlo, non userei paroloni come stato di polizia, dittatura, queste robe qui che in realtà non riescono, agitano degli spettri che magari non ci sono, però appunto, cioè, se una manifestazione come la critica al MAS diventa oggetto di violenza della polizia, il questore non chiede neanche scusa, anzi rincara dicendo c'erano gli anarchici, insomma è il segno che c'è un clima molto pesante, è stato, questo va detto. È stato tirato fuori il blocco stradale per caso? Del nuovo decreto Salvini. Il blocco stradale è stato, in realtà io l'ho visto usare solo sui giornali come motivazione dei fermi. In realtà non sono ancora state spiccate, non sono ancora arrivate delle denunce, se non al ragazzo fermato che è un mio collega rider, tra l'altro, che ha solo resistenza semplice, diciamo. Ecco. senza questo blocco stradale. Senti, riguardo a questo volevo anche dirti che c'è questo presidio al quale ti stai recando, fra l'altro è anche a Firenze, sì, come in altre città d'Italia, e si chiama Pedalare non è un reato. Almeno a Firenze, sì, si sta svolgendo proprio in questo, sì, momento. Anche a Torino, sì. Ah, bene, bene. Dalle 19 alle 19.30 in Piazza Santissima Annunziata, con la quale fra l'altro ci collegheremo fra un po' per la questione del presidio e poi per la partenza della Critical Mass. Due parole sul corteo di dopodomani. È un corteo, è una giornata importante per Torino. È una giornata importante per Torino, sì, è un po', diciamo, un punto non d'arrivo, magari poi così dire delle banalità, lo dirò comunque, punto di partenza, vuole essere un punto di partenza di un nuovo percorso a Torino che ha visto, insomma, avvicinarsi tantissime persone intorno alla questione degli arresti dei compagni allo sgombero dell'asilo occupato. È una giornata che cade in concomitanza con la giornata di Verona antisessista, senza volontà però di contrapporsi, semplicemente un accavallarsi di situazioni. Sì, sì, sì, a Firenze abbiamo un altro corteo. Sarà anche interessante. Quindi, bene, quello per il compagno che si ingroggiava, no? No, quello è la domenica 31, il 30 abbiamo la questione dell'aeroporto fiorentino, tutta la cementificazione della piana. Purtroppo c'è una grossa concomitanza. Ma dicevi, questo avvicinamento di molte persone alla questione degli spazi occupati, dove sta portando gli spazi occupati, in che direzione si sta concentrando? Allora, sicuramente c'è un discorso che vuole essere appunto la difesa degli spazi occupati, ma che non vuole essere la difesa del ghetto, no? Dello spazio, insomma, dello spazio intimo che ci sarebbe stato violato dal potere, insomma, ma che è un discorso che da parte nostra vuole allargarsi in maniera più ampia a tutto quello che è l'insofferenza verso appunto il governo attuale, sia cittadino che nazionale, no? Quindi la questione questi ambigui dei 5 Stelle e alle politiche odiose della Lega, certo. Insomma, un po' anche magari dei discorsi più profondi su quello che significa vivere al giorno d'oggi nelle metropoli, lavorare al giorno d'oggi in un sistema capitalistico, certo. Insomma, queste cose qui. È una cosa, fra l'altro, che mi viene a pensare a quello che sta succedendo a Firenze, dove anche qui c'è l'attenzione si sta un po' riversando sugli spazi che vivono delle difficoltà sempre maggiori, sempre più vengono spinti al margine, tentativi, sgomberi e via discorrendo. Quindi anche a Firenze. Gentrificazione, che da voi anche sia una turistificazione che sta spianando la città, praticamente derubando, sì, sì, e strappando via tutto, veramente anche lo spazio fisico alla comunità, alla cittadinanza. Quindi, bene, comunque interessante. Certo. Bene, senti, allora ti ringraziamo però ancora per il tuo contributo. E va bene, ci vediamo a Torino se non ci sentiamo prima. Va bene, è un augurio a tutti i ciclisti che questa sera scenderanno in strada. Bene, anche a voi, in bocca al lupo per la giornata di sabato e poi grazie, ci risentiamo mille. Sicuro. Grazie, ciao, grazie. Buona serata. Ciao a te. Ciao. Avete sentito il compagno torinese? Tied Up, The Black Keys. break this down. Quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, sì. Fino a quando non si è fatto promotore delle leggi sì. razziali, sì. E, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese. Beh, fino a quando non ha... E rieccoci qua. Eccoci, a parte la cosa di Matteotti, leggerina, figurati. A parte, scusa, ma quella... Pazzesco. Quindi alla fine le infrastrutture rimangono, cioè cosa rimane? Sì, le infrastrutture. Sì, buono. Il codice penale, probabilmente. Il codice penale, ce lo prendiamo ancora nei denti, tra l'altro. Assolutamente. Questo è l'urlo dei pedali. Siete quindi qui con in punta dei pedali, però puntata speciale. Vabbè, insomma. Puntata speciale, lo sentite, è balcanosa. E fra l'altro abbiamo anche notizie da pedalose dai balcanosi. Allora, esatto, io sono andato un po' a vedere, a cercare, mi sono mandato. Ma la critica al mass la fanno anche da qualche altra parte? Sì, sicuramente. Sappiamo benissimo che la fanno da tante parti. Ma nei Balcani. Allora, sono andato a cercare, ho trovato questo bel reportage che è del 2014, quindi è passato un po' di tempo, però è un reportage molto carino che racconta appunto della critical mass del 27 giugno, avvenuta proprio a Tirana, di questo bikers italiano, che quindi è andato là a seguire dicendo vai, piglia bene, vado alla critical mass di Tirana e mi unisco. E racconta un po' la sua vicenda tra chiari e scuri, nel senso tu vai a fare qualcosa che è internazionale, ma ognuno ha le sue declinazioni, tutto sommato. Quindi c'è da imparare e anche da non imparare, vedere gli errori. Certo. Comunque in generale inizia dicendo, allora io sono andato lì, chiaramente la bici ce l'avevo in Italia e dovevo noleggiarla, quindi l'ho noleggiata da questi, da Ecobolis, che è un'associazione che appunto noleggia bici o comunque dà gratuitamente bici. È andato alla manifestazione con questa bici targata Ecobolis. E subito tutti a guardarlo malissimo. E quindi, fin dall'inizio, il povero italiano dice: ma che cosa ho fatto? Qual è il problema? Anzi, si dispettisce se si sente all'interno della... Un turista della Sciemona. Sì, esatto. E quindi ci racconta che fondamentalmente c'è un piccolo dissidio all'interno di Tirana per quanto riguarda appunto il comparto dei bikers della città, perché ci sono quelli che appartengono alla critical mass, che tra l'altro c'è stata, che è continuata, non è che nel 2014 è stata l'unica, l'ultima è stata sempre a Tirana, no, sì, 2018, dov'è? Novembre, all'ora 18. Sì, in piazza Skanderberg. Piazza Skanderberg a Tirana, probabilmente il punto di ritrovo della critical mass di Tirana. 30 novembre, ecco, l'ho trovato. 30 novembre c'è stata. Comunque, insomma, ci racconta insomma, il ragazzo che lo guardavano male. Ha scoperto appunto che sono due, diciamo, facce della stessa medaglia, perché persone che lottano per far sì che diminuisca in generale l'inquinamento all'interno di Tirana, che è una città che vede un'auto ogni due persone. Tantissime. Perché appunto ci racconta durante la dittatura comunista erano vietate le macchine, erano circa 7.000 in tutta la città, dice. Pensa te. Erano pochissime vietate perché sono statali, E quindi poi dopo, quando è caduta l'Unione Sovietica, e comunque no, non è vero, dopo, perché l'Albania è caduta molto dopo il regime, hanno cominciato insomma, piano piano, chiaramente, a prendere ciò che l'Occidente vedeva come obiettivo, cioè la macchina, quei mezzi che uno dei primi ti rendono un uomo moderno, macio ed europeo. E quindi insomma c'è stata questa diffusione enorme di macchine, tant'è che Tirana è una città veramente veramente molto inquinata. All'interno di questa lotta per sia quella ideologica, di riappropriarsi delle strade, tutto quello che dicevate prima, insomma, insieme al compagno di Torino, e sia dal punto di vista proprio climatico, sono due appunto la critical mass, e dall'altra Ecobolis, e c'è un dissidio, cioè proprio fanno dei raduni diversi, separati, sempre per protestare su questa cosa. Una cosa che succede anche in alcune città italiane, ad esempio a Bologna, ecco, succede, vedi, una cosa simile, tra l'altro. A Firenze invece la questione è, cioè, la critical mass, e poi c'è anche appunto FIAB, Firenze Ciclabile, giusto, un'associazione, però diciamo all'incirca il tutto viene tenuto insieme all'interno della critical mass, quindi sì, c'è anche un lavoro comune da parte di queste due realtà. Ma sì, lì ti tira in ballo quando lo chiede, dice, quando lo chiede a uno dei ragazzi, gli dice: ma l'hai vista la bandiera dell'Albania? C'ha quella ha due teste, gli dice, per spiegargli qual era la questione. Quindi due teste della stessa aquila. Sì. Tra l'altro, guarda, stavo guardando il calendario e il 30 novembre era un venerdì, e si può presumere la critical mass nel mondo in generale ha l'abitudine di ritrovarsi l'ultimo venerdì del mese. Mentre a Firenze invece succede con l'ultimo giovedì del mese, perché il venerdì era un tornato, no? E comunque tendenzialmente nel mondo è l'ultimo venerdì. Si può presumere con molta probabilità che il ritrovo della critical mass sia tutti gli ultimi, in Albania, a Tirana, tutti gli ultimi venerdì del mese presso piazza, come si chiamava? No, che cambia, in realtà è cambiato. Questa qui era piazza Skanderberg. Skanderberg. Questo nel 2014 era, non so se era sempre quella piazza lì, non mi sembra. Ritrovo questa Pedishot di fronte alla piramide, che è la piramide in onore di Enver Hoxha, che era il dittatore. Bene, comunque se vi trovate in Albania e magari avete una bicicletta, o magari se non ce l'avete noleggiatela con attenzione, a questo punto potrete trovare la critical mass a Tirana l'ultimo venerdì del mese. Lo diciamo qua e non ne siamo sicuri, potrebbe essere una bufola, controllate sui social network. Sì, sì, no, ma c'è scritto tutto, si trova facile, senza problemi. Tra l'altro la critical mass nasce nel 92, sì, 1992. San Francisco. Ancora peggio, tutta salita e discesa. Esatto, sì, ci pensavo. Sì, dice che la prima critical mass erano tipo una decina, e poi sono cresciuti, sono arrivati. Ora sono tanti. Cioè, sì. C'erano le città tutte pianeggianti. Sì, vabbè, ciao. E nel racconto continua. Vedi, poi arrivano a Piazza Skanderberg, quindi comunque è un punto di arrivo, di ritrovo. Una cosa interessante che diceva, a parte veramente Maranza, si sbombarda. Dice che fondamentalmente lui era in fondo e c'era questa ragazzina con questa mountain bike enorme, faticosissima, dice durava una fatica, che stava dietro, e c'era sto camion che gli andava, gli suonava, gli sfanalava dietro, e lui rimane colpito perché questo qui non faceva una piega, e anzi dice rallenta, tira il freno e rallenta, e dice lì ho capito che sono le ultime file a comandare, cioè a dirigere il tutto, perché allora rallentano tutti. E poi un'altra cosa buffa è che a un certo punto c'è questa Rolls Royce che riesce a passare, una Rolls Royce, una macchinona, che riesce a passare, perché loro in un certo momento non riescono più a dirigersi, insomma a stare tutti insieme, aprono un varco, questa passa e comincia a sfrizionare duro per sbombardarli tutti di gas, e allora dice praticamente uno comincia a fare il verso degli indiani, quello... E dice tutti insieme hanno cominciato a fare bla bla bla bla, e quindi tutta la massa di bici è tornata indietro, ha fatto una U e è tornata indietro, capito? Dice una cosa che usano lì. Vedi, questa a Firenze non è usata. Infatti un potrebbe richiamo. Essere interessante. Vedi, sì, un richiamo. Dopo lo suggeriamo ai ragazzi e alle ragazze che avremo in collegamento. E bello, comunque sì, le ultime file sono importanti perché diciamo chi è davanti decide il percorso tendenzialmente, quindi certo. Se te vuoi decidi a un certo punto vuoi passare sotto casa tua, vai davanti e porti tutti sotto casa tua, funziona così la critical mass. Però le ultime file sono quelle sì che devono controllare controllare che nessuno si infili dentro, quindi fare blocco davvero, e devono anche essere capaci di interagire con le persone che nel frattempo vogliono ammazzare tutti. Certo. Che sono lì a due passi e gli pushano, gli urlano alle spalle. Quindi hanno un ruolo molto importante dove insomma, devi spiegare, devi essere bravo a non farti cazzottare e a non cazzottare anche spesso. Fico, vedi, insomma, ti dicevo, si impara e... si impara gli errori nel caso, ma anche le cose buone. Certo, ecco, certo. Sì, sì, no, il bello della critical mass è che anche cambia forma nel tempo, perché ci sono vari approcci in ogni città. Cioè, certo. Sono diverse. Sono no, poi dipende diverse. Anche, lui diceva anche nell'articolo, dipende anche da com'è la società. Cioè in Olanda è tutta un'altra cosa, no? Cioè, certo. Già dominano. Io non so se ti è capitato di andare in Olanda che per sbaglio metti un piede nella pista ciclabile. Te lo segano. Fanno un culo così. Sì, sì. Comandano loro, è assolutamente. Così, è così, no, qui è tutt'altro, però ci sono vari modi per sovvertire, no, l'ordine, sì, della strada. La critical mass è uno di questi, in particolare la Cimona. Che ecco, è bravo, la Cimona. Tirana l'anno scorso era una Cimona. Ecco, era una Cimona, quindi la Cimona si parla del grande raduno tendenzialmente nazionale, ma non è proprio così, perché poi arrivano persone un po' da tutta, almeno quella in Italia, arrivano persone un po' da tutta Europa. Mi ricordo l'anno scorso a Firenze c'erano delegazioni davvero da tutta Europa, è stata una cosa bellissima. Quest'anno ci siamo quasi, Ci siamo quasi, ti confermo, ultimo venerdì del mese, cioè sì, anche quella, vedi? Tirana, sì. Vedi, è così. È così. E ci siamo quasi, perché la Cimona, che l'anno scorso ha sfilato nelle strade fiorentine, quest'anno torna un po' a casa, perché a Roma è d'abitudine la Cimona. Stiamo parlando di fine maggio, l'ultimo fine settimana di maggio, quindi si scavalla in giugno e ritorna a Roma. Io vi leggo il comunicato, se volete. Sì, vogliamo. Bene. Allora, si... da qui. Si chiama... La Cimona è la critical mass interplanetaria. Nell'interplanetaria, la bicicletta, da sempre mezzo di resistenza che sostiene le esigenze di movimento di ogni individuo, diventa massa acefala, colorata e gioiosa. Nel suo stesso essere dà forma a un modo o altro di rappresentare, di rappresentarsi... di rapportarsi dall'esistente. La massa crea e percorre spazi prima ritenuti impercettibili e inaccessibili e sostiene e festeggia il principio di autodeterminazione di individui e popoli che siano liberi di muoversi autonomamente, senza restrizioni e confini, attraverso mari e terre, non più resi ostili. La massa non conosce mai il proprio percorso, ma ha ben chiara la strada da percorrere, quindi rivendica la libera circolazione di idee, dando vita a uno spazio orizzontale e libero in cui si è concepita ogni possibile sfumatura di pensiero e pratica antifascista, antirazzista e antisessista, creatrice di pensieri, di pensiero e capace di arricchire e stimolare il senso critico. Questo è un piccolo estratto dal comunicato della Cimona 2019, che ancora non ha pubblicato il programma dettagliato, però è un po' ancora, insomma, ci staranno lavorando, è un lavoro enorme alla fine mettere insieme una Cimona, quindi lascia fare. Sì. Tutto questo anche un po' il ricordo della Cimona di Firenze, che è rimasta un po' nel cuore, nella mente di tutti di tutti noi. Io ho partecipato un po' di striscio, avevamo un sacco di cose da fare, però ho avuto modo di parlare con persone entusiasmi, veramente, cioè, entusiaste della contentissime. Un piccolo punto, cioè, ecco, quella piccola partecipazione mia alla Cimona, quindi a una critical mass decuplicata praticamente rispetto a quella, è stato veramente, mi ha colpito la semplicità nel sovvertire le regole della strada, le leggi della strada, perché basta essere tanti, non importa altre cose, basta essere tanti per riuscire a avere un potere di fatto sulle altri elementi che tendenzialmente prendono tutto lo spazio sulla strada, privano tutti, le macchine, cioè, ecco, sono le più ingombranti, sono le più aggressive, e quindi è semplicissimo, è veramente semplicissimo sovvertire questa cosa. Bisogna vedere se c'è la volontà, no? No, certo. Però il tutto, ad esempio, passa attraverso semplicemente andare in bicicletta. Quindi si tratta di andare in bicicletta insieme a tante altre persone. Una cosa che tutti noi quasi facciamo tutti i giorni, lo facciamo da soli e siamo esposti a un'infinità di rischi. Vero. Mentre quando ci vai in tanti, questi rischi scompaiono. E hai modo di esprimerti, come dicono i compagni e le compagne di Roma, hai modo di autodeterminarti, hai modo di conoscere, di tessere relazioni, si conoscono tantissime persone durante le... Ma sì, poi uno dei punti salienti è quello per tutte le cose, anche fanno anche tutti gli spazi sociali, cioè stare insieme, incontrarsi, parlarsi, perché molti mali che affliggono questo mondo derivano anche dal fatto che viviamo nei nostri piccoli alveari e non comunichiamo fra di noi, e quindi poi fa paura anche il vicino di casa. Sì. Non a caso la critica della Cemona si appoggia nell'organizzazione storicamente ai centri sociali, agli spazi sociali della città, attraverso le ciclofficine popolari, che però appunto sono quelle che stanno negli spazi sociali. Però non è sempre stato così. Nasce all'interno in Italia? No, in verità no, però diciamo che ha trovato un po' il suo corso naturale, ecco, quindi se anche a Firenze la Brugola Rossa e le altre città popolari partecipano, e quindi insomma sono un punto cardine del tutto. Senti, ma comunque chiamiamoli questi... abbiamo un paio di compagni della Critical Mass Firenze da chiamare, magari... Abbiamo fissato alle 19:15, abbiamo 2 minuti, un pezzaccio, mandiamolo. Vai, quindi Orange Juice by Stanley Brinks and Burning Hell Officer. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. It's raining. Might as well be dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. Thank you. Eccoci. Hey! Eccoci, avete sentito Orange Juice? Tanta voglia di succo d'arancia. E ciù! E ciù! Soren ciù. Bene, e allora? Ah, che si fa tu? Scusa, non ho composto il numero. Va bene, componiamolo, dai. Stiamo per chiamare Michele dalla Critical Mass di Firenze, che sta per partire. Attenzione, dovremmo fare anche abbastanza veloci perché loro hanno un po' la smania oggi. Ho detto, mi raccomando, precisi, siamo 3 minuti in ritardo e dai, ci perdoneranno. Wind. Sicuro. Ecco, Wind. Il numero che lei ha composto è inesistente. Oh, no, no. Inesistente addirittura. Allora, riproviamo. 3, 4, neanche raggiungibile, proprio inesistente. Prova a ridartelo, se no. Wind. Il numero che lei ha composto è inesistente. E dai, Sbagliavo qualcosa, dai. Allora, guarda un po'. Allora, guarda, questo. Eccolo qua. Ci si riprova. Queste cose succedono a chi non si prepara prima, come noi. Come eravamo pronti. Eravamo pronti, sì, ma col numero sbagliato. Dai, va bene. Allora, appunto, in Piazza della Santissima Annunziata c'è stato il presidio pedalare non è reato, promosso da FIAB, Firenze Ciclabile. E fra pochissimo parte la Critical Mass fiorentina, tutti i giovedì in Piazza Santissima Annunziata, 19:30. Chissà, ci risponderà? Forse sì. Forse. Pronto, Michele? Sì. Ciao, pronto. Buonasera. Bentornato su Radio Wombat. Come va? Va molto bene, qui siamo in Santissima Annunziata, c'è già un centinaio di persone pronte a partire con la bicicletta. E un saluto ovviamente a tutte le spettatrici e spettatori di Radio Wombat, ascoltatrici e ascoltatori. Un saluto anche a tutti le partecipanti della Critical Mass di marzo, fiorentina. Senti, volevamo chiederti un po', abbiamo parlato poco fa con un compagno torinese e volevamo chiedere l'opinione tua e anche un po' dei ciclisti della Critical Mass riguardo a quanto è successo settimana scorsa durante la Critical Mass torinese. La notizia ovviamente ha smosso gli anni perché è stato il primo episodio dove la polizia è intervenuta contro la Critical Mass, che è risaputo essere un evento molto pacifico e divertente dove la gente semplicemente usa la bicicletta per fare una girata e un modo per riappropriarsi degli spazi e dimostrare anche che c'è un'alternativa all'automobile. No, ripeto, totalmente pacifica, quindi è stata molto scioccante sapere questa gli fatti di Torino. Ecco, per questo si è svolto un presidio in tante città italiane, come anche a Firenze. Sì, il presidio c'è in diverse città, tra cui ovviamente Torino, Genova, Firenze, Bologna, Napoli e Roma, in contemporanea oggi. Ecco, avete partecipato, eri presente durante il presidio, vi sono stati degli interventi, cosa ti è apparso? Scusami, non ho sentito. Hai partecipato a questo presidio oggi, era lì in Piazza Santissima Annunziata, se non mi sbaglio. Sì, il presidio è qui proprio in Santissima Annunziata, quindi c'è un po' un mix tra associazioni, quale la FIAB e i partecipanti della Critical Mass. Ecco, questa è sicuramente una notizia che ci fa piacere, vedere che le realtà collaborano anche nella solidarietà rispetto a quanto è successo. Lo ritieni un fatto eccezionale quanto è successo a Torino oppure un indice di una tendenza che stanno prendendo le città italiane? No, ora come ora Torino per fortuna è un fatto isolato. Le dinamiche dietro sono ancora da chiarire perché non si sa bene il perché. La Critical Mass avviene in tante città ed è sempre pacifica, salvo rare eccezioni che però non sono in Italia. Comunque sì, sono ottimista nel vedere che ci sia anche un punto di incontro tra le associazioni e ciclisti, quale la FIAB, quindi sia Firenze Ciclabile, è una realtà come la Critical Mass, comunque l'obiettivo è comune, ovvero di diffondere l'utilizzo della bicicletta. Ecco, sì, benissimo. Senti, che programmi avete stasera? Concludete in qualche spazio particolare? Avete una cena? No, nel post-massa non c'è niente in programma, quindi si svolgerà come una normale Critical Mass, quindi a un certo punto verso le 7:30 partiremo. Ovviamente come qualsiasi Critical Mass non c'è un percorso prestabilito, sta davanti, diciamo, scegli dove andare, cerca di coinvolgere il gruppo e non riusciremo. Ovviamente tutto nel rispetto del codice della strada, quindi la Critical Mass può essere anche sì sovversiva ma non invasiva, ovvero non è volta certo a danneggiare altri utenti della strada. Ecco. E senti, una piccola domanda, tornando alla questione di Torino, dove è uscito fuori da qualcuno, soprattutto da parte dei giornali, la questione del blocco stradale, poi di fatto la persona che è stata fermata, non sono ancora arrivate denunce per questo reato, lui è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale, però comunque gira voce, mettiamola così, c'è questo alone di intorno alla Critical Mass del rischio di un blocco stradale. Secondo te è una cosa nella quale possono incorrere i partecipanti a una Critical Mass? Ma sarei molto curioso di sapere come definiscono il blocco stradale, perché di fatti il blocco stradale non viene creato dalla massa, la massa è sempre in movimento. Se c'è un blocco stradale sarebbe né più né meno quello che si crea ogni giorno sulle strade di Firenze come d'Italia, causato dalle macchine, dove lì effettivamente c'è un blocco, la massa magari va piano ma non si ferma mai, quindi la mia curiosità è da appunto chiedere a chi ha ideato questa legge cosa intende per blocco stradale. Ecco, sì, e fra l'altro ne parlavamo anche in sede privata, mi dicevi che le leggi sulla viabilità sono diverse fra paese a paese, in alcuni paesi ci sono delle accortezze particolari anche per i gruppi di ciclisti, perché ad esempio io sono abbastanza d'accordo con te quando dici che la massa non blocca, bensì rallenta, però ci sono ad esempio alcuni casi in cui seguire il codice della strada porta dei problemi di sicurezza per la massa. Mi viene in mente ad esempio un semaforo rosso che scatta a metà di un gruppo di 150 persone, è un po' una cosa pericolosa per i ciclisti. E quindi spesso magari se il rosso scatta a metà, l'altra metà passa col rosso bloccando poi la viabilità che arriva, però questo mi dicevi che in alcuni paesi non è così, è diverso, è legale, ecco, è una cosa che si può fare. In alcuni paesi tipo la Germania è previsto dal codice della strada che quando c'è un gruppo di ciclisti, gruppo definito da 15 o più ciclisti, quindi si parla di cioè, la massa ci rientra tranquillamente, visto che riesce a raggiungere tranquillamente le 100 unità, secondo il codice della strada tedesco, se c'è un gruppo del genere innanzitutto sono autorizzati a prendere un'intera carreggiata, perché è una forma di sicurezza, il ciclista viene considerato l'utente debole al pari del pedone, e in più prezzo di incroci con semaforo sono trattati né più né meno come, magari sembra un po' una prova brutta, come bestiame, e quindi sono autorizzati a impegnare un incrocio anche col semaforo rosso, proprio per evitare di spezzare il gruppo. Ecco, e questo non succede con il codice della strada italiano, ma secondo te perché non, in altri paesi sì e in Italia no, e che cosa rappresenta la bicicletta agli occhi della politica italiana? Senza dubbio negli altri paesi c'è un'altra concezione della bicicletta, dove non la vedono una minaccia, al contrario invece qui in Italia la vedono come un qualcosa che possa in qualche modo destabilizzare la politica, che è stata fatta in maniera pesantemente qui in Italia verso l'auto, l'utilizzo dell'auto e tutto quello che ci gira attorno. Quindi è comprensibile, diciamo, mettendosi nei loro panni, che la bicicletta possa essere fastidiosa, e da qui diciamo anche le leggi che non favoriscono l'uso della bici in sé, oppure le infrastrutture, quali ciclabili e parcheggi. Si vede tutti i giorni che comunque un ciclista ha difficoltà a spostarsi in una città come Firenze, che nonostante tutto è considerata una delle migliori città per quanto riguarda la ciclabilità. Per caratteristiche proprio topografiche, mi verrebbe da dire, perché è piccola e perché è abbastanza in piano. Sì, Firenze sarebbe l'ideale per, diciamo, per usare la bicicletta. È piccolissima, è in piana e quindi diciamo c'ha anche un clima abbastanza mite, quindi non ci sono troppi deterrenti per non usare la bicicletta, se non la, come dire, la pena di usarla, quindi la pigrizia. Sì, forse a volte anche, cioè, appunto come ci insegnano gli amici nordici, serve investimenti per portare avanti questa questione, eh. Servono grossi investimenti per le infrastrutture, per un po' per tutto, appunto. Allora, in alcune città italiane ho visto che ci sono sono state messe in atto dei rimborsi per i lavoratori, che, insomma, piano piano forse ci si sta arrivando. Però ecco, sì, hanno fatto anche poco tempo fa un bellissimo servizio su Presa Diretta, dove dimostravano che una volta costruite le infrastrutture, appunto ciclabili, parcheggi, la gente lo usava molto di più, cosa che è stata riportata anche da uno scrittore inglese, giornalista scrittore, Walker si chiama, che ha scritto un bellissimo libro, Noi ciclisti salveremo il mondo, che riportava lo stesso dato, ovvero una volta che costruisci le ciclabili, la gente le usa, perché uno dei più grandi differenze di usare la bicicletta è appunto la sicurezza, quindi la mancanza di viaggiare sicuri. Dai, va bene, grazie mille. Allora noi facciamo un ultimo invito a tutti i ciclisti e le cicliste fiorentine a recarsi in Piazza Santissima Annunziata adesso, perché sta per partire la Critical Mass. Vi auguriamo buona serata, e purtroppo noi siamo qui in regia, ma chissà se riusciamo a raggiungervi. Grazie. Volevo anche, se mi permetti, ricordare che a maggio... Ah, vero, sì, la Scemona, ne abbiamo parlato poco fa, volevamo anche farti qualche domanda. Dai, presentaci. Ah sì, la Scemona tornerà a Roma dopo 4 anni, i giorni saranno 31 maggio, 1 e 2 giugno, dove diciamo l'evento principale sarà l'1 giugno, quindi sabato, ci sarà proprio effettivamente la scelta Scemona. E poi fra l'altro il 2 classicamente da Roma si va a Ostia, giusto, al mare? Il venerdì ci sarà la Critical Mass cittadina, il 1 la Scemona e il 2 andremo a Ostia, quindi la pedalata da Roma a Ostia per andare al mare. Che bello, che bello. Bene, allora niente, per questo rimandiamo al sito della Scemona, che è scemona.noblogs, dove è uscito il comunicato, uscirà il programma a breve, e rimandiamo alla pagina Facebook della Critical Mass Firenze, che è Critical Mass Firenze, se non mi sbaglio, vero? Sì, esatto. Tutti gli ultimi giovedì del mese, presso Santissima Annunziata, dalle 18:30. Esatto. Bene. Grazie mille, a prestissimo. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Grazie. La lingua che mi sono masticato, il dolore che ho procurato, un occhio quasi malacrimato, ma l'ho già dimenticato. Al matrimonio non ci ho mai creduto. Il funerale si allora, può il tuo boss non fare per andarcene come ci pare, un'altra settimana al mare, fare i conti con i soldi contati, dare il meglio solo sul dance floor, poi addormentarsi rovesciati senza più i vestiti. Yeah. mai pensato, ti ho sempre vista bellissima. E le scarpe che hai dimenticato le uso per ballare. C'è un'aria strana quando vado al bar, sembra un raduno di supereroi. Supereroi andati in pensione, pieni di ricordi a 20 anni. Mi piacerebbe vivere in comune, sono bravo solo a star da solo. E i genitori che hanno divorziato li odio ancora molto. Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente? Di che cosa parla veramente una canzone? Di che cosa parla veramente una canzone? Non lo so. Bella festa cominciata, delle scarpe che non ho, dei desideri e dei piaceri, del ballerino che sarò, della morte che mi guarda, dell'antidoto che ho, di come salveremo il mondo, o perlomeno il nostro, del denaro, e tornano in regia. Eccoci qua. Eccoli. Eccoci qua, siamo verso la conclusione. Siamo verso la conclusione, sì, è vero, però che voglia di andare nei Balcani, tu ho. Ho so che hai anche un gran piano. No, allora sì, io sono già stato una volta nei Balcani. E Dove? Allora, ho fatto da Trieste, sono andato, cioè, ora non so, la Slovenia si considerano Balcani? Sì. Allora ho fatto un paio di giri in Slovenia, fra Lubiana e per la parte vicina al confine con Gorizia, Nova Gorica e tutta la faccenda lì. Poi sono stato in Croazia, a Zagabria, però ovviamente Zagabria basta, e poi sono sceso ho fatto un viaggio bellissimo in treno tra Zagabria e Sarajevo, che è veramente un tuffo indietro di 40 anni, anche 50 forse, su questi treni scassatissimi, bellissimo, veramente bellissimo. Sarajevo, poi da Sarajevo sono sceso verso... non mi viene, Mostar, sono stato a Mostar. Ah, sei stato a Mostar? Sì, e poi sono sceso anche verso Spalato. Anche che scrive. Allora c'è questo articolo, io ancora non l'ho letto, però tu ora lo puoi vedere. Sì. Piccioni, amore armeno. Però non l'ho letto. E bello, bellissimo. Questo mi ha fatto un po' innamorare dei Balcani sotto, insomma, è un posto veramente particolare. Secondo me è una bellezza che non molto, molto diversa dal concetto di bellezza che abbiamo noi, però per me è affascinantissimo. No, assolutamente, assolutamente. E fra l'altro la mia voglia da tanti anni è quella di andare al Guza Festival, che è un festival di fanfara che si svolge ad agosto tutti gli anni a Guza, in Serbia. In Serbia? In Serbia, sì, molto vicino al confine con la Bosnia e Erzegovina. Con la Bosnia, ok. Si arriva passando da Sarajevo. E per l'esattezza io ci vorrei andare e lo lancio qua oggi a tutti, all'urlo dei pedali, a tutti e tutte, compreso in prima persona te, caro tuo. Certo. Di andare al Guza Festival in bicicletta. Quanto quanto ci vuole? Scusa, allora, quanto ci vuole? Questo è esatto. Ora Google Maps sta un po'... Ci sta ragionando sopra, poi magari ce lo dirà. Facciamo zia occhio. Intanto diciamo che il Guza Festival quest'anno inizia l'8 agosto e finisce l'11 agosto. Sono 4 giorni di festival, praticamente ininterrotto. Si va dritto alla fanfara negli orecchi. E... niente, ci va, dipende da che strada scegli, perché se scegli di passare da Trieste è lunghissima, se invece scegli di fare la scorcia a Troia attraverso il mare, vabbè, grazie. Puoi arrivare tranquillamente ad Ancona e poi prendere una nave, poi scendere a Spalato e da Spalato a Guza sono... No, aspetta, perché mi sta dando... Comunque, ti dico una cosa, allora, se si fa la lunga, non vengo. No, io se la lunga, fai la corta, lunga è un po' troppo ci potrei lunga. Stare. Io proporrei a tutti e tutte, perché in tutto sono circa 900 km da Firenze a Guza, passando dal mare. Quindi io direi che possiamo farne la parte dei Balcani. Diciamo che arriviamo a Spalato e partiamo realmente da Spalato. Spalato, Guza, okay. Guza e poi vediamo. Quindi treno fino ad Ancona. Sì, o treno per i più coraggiosi anche in bici, volendo. Che partono un po' prima. Sì! E poi si prende la nave tutti, e poi via al Guza. Naturalmente ci dobbiamo portare dietro un po' di roba per dormire, c'è cose, però vabbè, ciao. Ok, quindi facciamo un po' come Controradio. Che ultimamente Controradio ultimamente organizza più viaggi che trasmissioni. Ah sì, un'agenzia di viaggio è diventata veramente una radio di viaggio. Nel vabbè, senso che sì, si è fatta bene, figo. Sì, vabbè, questo poi dipende dai gusti delle persone. Sono certo. Viaggi molto turistici, quelli che vengono fatti con Controradio, anche in posti belli, vanno dall'India al Vietnam, negli Stati Uniti, con Jimmy Tranquillo e via discorrendo. Allora noi non vogliamo fare come loro, vogliamo fare principalmente trasmissioni, però vogliamo anche andare a conoscere i luoghi delle nostre trasmissioni. Assolutamente. I Balcani, vogliamo conoscere i mezzi delle nostre trasmissioni, in questa cosa della bicicletta, uniamo le due cose, l'urlo dei pedali prende e va a Guza. Assolutamente. Quindi se vi volete accodare a Riccobaldo e Tuco, che si dorme che in amaca, si dorme in amaca, c'è un diktat esatto. Nostro. Se vi volete accodare, noi non facciamo come Controradio, vi diremo è una cosa... conoscendoci sarà una cosa totalmente auto-organizzata, sia lo sbaraglio, dormiamo in amaca e non spendiamo un cazzo. Se volete venire con noi, scrivete a postawombat@insiberia.net. Molto curioso, vediamo se ci... Chissà, dai, e anche con proposte naturalmente, considerate che noi siamo persone che ci piace viaggiare, ci piace anche curiosare, ci piace conoscere i posti e le persone, quindi se avete proposte o suggerimenti dove andare a dormire, così scriveteci, mandateci messaggi su Facebook, alla pagina o sulla posta elettronica, noi li accoglieremo se ci piacciono, se non ci piacciono, vabbè, potete venire con noi direttamente a cercare di portarci sull'altra strada. Assolutamente, assolutamente. Senti, allora mandiamo un ultimo pezzo strano, dai. Che ho trovato l'altro giorno strano, in nordico, dai, con sì. La lingua strana, dei Rumatera Azzeccatori, poi diciamo giusto due cosine e poi chiudiamo, chiaramente per oggi, se no sì. Rubiamo spazio. Quindi dimmi poi cosa ne pensi di questo pezzo muy strano. Prima programma se traina, tacque azzeccatori, salta in aria al banco. Sente il culo. E a me sta ma sente il culo. E a me sta ma sente il culo. A me sta ma sente il culo. Hai tutto il pomeriggio sotto a candela del sole. Va a essere ospitale, dimmi cosa che vuoi. Se domando fiade acqua o una biretta, pare che sia Dio. Domandarghe di farmi pinciar so mare. Arriva avanti uno vestito da Vasco Rossi. Insegnami a fare luci, ma mi te spacco io. Si fa l'accento e mi chiama, vien da Ponte e Denanto. Che neanche a qui, ovvero, non si attira così tanto. E ora mi non dico niente, ma gliela lontano. A me tutta sta gente, non c'è mica un caso che a me sta massa in del culo. E a me sta massa in del culo. Sente il culo. E a me sta ma sente il culo. E a me sta ma sente il culo. A me sta ma sente il culo. È bellissimo, Tuco. Ti è piaciuto? In Veneto. Ma che dice? Boh, a me... cosa parla sto pezzo? Non ho capito neanche io, ho capito che un sacco, tutta sta gente a lui gli sta sul culo. Oh, il ritornello era mi state tutti sulle palle. Secondo me sì. Può darsi. Non sono un grande esperto in Veneto, io, però... Così, mi è sembrato che lui facesse di lavoro l'elettricista, una cosa del genere. E quindi poi andava nei posti, la gente... Non lo so. Come si chiamava, anche come suggerimento, ma me la voglio andare a riascoltare intanto. Te la veri, voi, cosa vuoi sapere? Sì, il titolo? Allora, il titolo è Azzeccatori. Azzeccatori? Dei Rumatera. Dei Rumatera, perfetto. Azzeccatori Rumatera, riascoltiamocela tutti e tutte. Il momento... Borda! Questa era la tua, Va bene, allora, siamo in conclusione per davvero. Allora, che cosa succede a breve? Che a dobbiamo ricordarci. A Firenze, intendiamo, sì, certo. Andiamo un po' sul serio. È un fine settimana caldissimo, pieno di cortei. Perché? Perché sabato viene uno al Polo Scientifico alle 2:30, è la manifestazione No Aeroporto Si Piana, si sta parlando di un fatto veramente importante per la città di Firenze, visto che un aeroporto nuovo renderà sì più connessa alla città, ma non tanto per i cittadini quanto per le... Ora io guardo un po' la questione di vivibilità della città, il centro e l'immediato circondario, la prima periferia, che verrà colpita sicuramente dall'afflusso ingente, ulteriore, dei turisti che già assediano Firenze, che già invadono Firenze, mentre poi le conseguenze sono grosse anche per quanto riguarda la Piana, visto che aumenterà notevolmente il traffico aereo, visto che c'è un po' lo scientifico, lì accanto, accanto. Accanto, veramente a poche decine di metri da quella che dovrebbe essere, forse sarà la nuova pista, che è veramente messo a rischio perché vi sono dei laboratori di eccellenza, di estrema precisione, sia di chimica che di fisica, che non sono compatibili con un'infrastruttura così impattante e così vicina. Oltre che anche la questione del parco, che ancora non si è visto manco un albero piantato, il famoso Parco della Piana, oltre al fatto che insomma l'inquinamento in questa zona è forte. Quindi ripeto, sabato 30 alle 14:30 al Polo, se ne volete approfittare, il Polo è occupato, sarà aperto fin da venerdì sera, sì, fino a domenica. E poi con domenica appunto arriviamo ad un altro corteo che sfiderà a Firenze, questa volta da Piazza Leopoldo, il ritrovo anche lì alle 15, e si sta parlando del corteo in memoria ad Orso de Kosher, caduto per mano dell'ISIS, caduto perché era un combattente delle FDS, le forze democratiche siriane. Il fiorentino, rifredino, e quindi è un po' il corteo in sua memoria, nei suoi luoghi, nelle sue piazze, nelle sue vie. Grazie, vi saranno la comunità curda sicuramente, che è stata molto presente sia negli ultimi anni nel portare avanti la lotta del Rojava e del confederalismo democratico, però è stata presente anche nelle assemblee che si sono svolte gli ultimi due martedì per l'organizzazione e la memoria, insomma, di un partigiano dei nostri tempi. Questo sì, una persona fra l'altro anche vicina agli spazi sociali, un compagno, ecco, quindi insomma sarà una giornata anche toccante, probabilmente importante, molto importante per il quartiere, per Rifredi, per Firenze anche in generale. Assolutamente. Quindi fine settimana denso. Sì, fine settimana denso. Fra l'altro Radio Wombat sarà presente in entrambe le occasioni. Bravo. Cioè sia sabato che domenica. Sabato addirittura vi saranno collegamenti sì con la piazza Fiorentina, con la questione dell'aeroporto, però vi saranno collegamenti anche con altre due piazze molto importanti. Una ce ne accennava il compagno torinese a inizio puntata. A Torino ci sarà un corteo anche lì verso le 2:30, le 3, per in difesa appunto degli spazi occupati, a partire dalla questione dell'asilo, che è stato sgomberato più di un mese fa e ha portato è stato l'inizio, ha portato un certo clima in città, però questa cosa si può allargare un po', perché gli spazi sociali sono a rischio in tutta Italia, soprattutto dopo il decreto Salvini, dove si è ufficializzata la lotta contro chi fa politica in modo a loro modo di vedere illegale, noi diciamo legittimo. Però non è l'unica piazza, perché sempre sabato 30 a Verona vi sarà la manifestazione di non una di meno, dove quella si preannuncia anche una calda manifestazione, anche quella di Torino, sì, in particolare quella di Verona. Sì, sta parlando, c'è un evento del Family Day, ci saranno presenti veramente nomi grossi, da Gandolfini a Pillon Salvini, la Meloni e via discorrendo, quindi attenzione, noi saremo lì a seguire, avremo dei corrispondenti, avremo lo spezzone dello squirt fiorentino. E quindi i collegamenti saranno svariati. Tutto questo si può dire su Radio Wombat all'incirca da sabato, dalle 2:30-3 troverete la diretta della giornata di mobilitazione un po' in Italia, o quantomeno in Nord Italia. Domenica faremo collegamenti invece dalla piazza Fiorentina per Orso, anche lì a partire dalle 2:30-3. Allora seguiteci anche su AM1359, oppure appunto qua dove ci state già ascoltando, wombat.blogs. Bravo, grazie, mi inverto sempre. Basta, un salutone a sì, tutti. Sì, dai, un salutone, grazie a tutti mille. E chissà se avrete il piacere di risentire l'urlo dei pedali, questo lo sicuramente vedremo. Potrebbe sì, assolutamente, potrebbe anche switcharsi il momento in cui, quindi la bici inglobata dai racconti del Balcani, non esatto. Vabbè, poi dovremmo anche sentire Dene perché che ne pensa, perché comunque io di solito lo faccio con lui, ora lui è vero, se n'è andato, però secondo me approva alla grande. Ma sì, poi mi è sempre. Va bene, dai. A settimana prossima quindi con l'Uro dei Balcani, viva. A quella dopo ancora, in punta di pedali, viva Radio Wombat, viva in punta di pedali. E viva l'Uro dei Balcani. Wombat. Noi.